Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti alla nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Pocahontas, film del 1995 ed è considerato il 33esimo classico Disney. Il film è ambientato nel periodo del colonialismo nelle Americhe ed è ispirato alla testimonianza vera di un'omonima nativa americana che è vissuta durante il 600, ma che ha avuto una storia, benché frammentaria, molto più drammatica di quella che verrà riprodotta dalla Disney, ovviamente. Infatti, nel film Disney, la protagonista è la giovane Pocahontas, che è la figlia del capo della tribù indigena che abita appunto nelle coste della Virginia, dove sbarcheranno, capitanati dal capitano John Smith, dei coloni inglesi, gestiti dall'avido governatore Ratcliffe, che vogliono raggiungere le riserve d'oro, che comunque poi non ci saranno, andando avanti nel film. Pocahontas e John si incontrano e si innamorano, però Pocahontas è già promessa sposa al più forte guerriero della tribù, e la tribù di Pocahontas e i coloni di John Smith sono ovviamente in guerra fra di loro. Di conseguenza la loro relazione sarà molto difficile. Il film è molto drammatico, tant'è che John viene anche catturato dai nativi e deve essere anche giustiziato, ma Pocahontas lo salva e alla fine John deve appunto ritornare in Inghilterra perché aveva impedito il piano del governatore. Il film quindi finisce male, in un certo senso, però in realtà molti, durante il periodo d'uscita, furono particolarmente critici proprio per l'adattamento fatto dalla Disney. A livello di design, molti erano critici anche per quanto riguarda i disegni, infatti erano troppo stilizzati, oppure c'era un po' di contrasto fra i vari personaggi, proprio per il design scelto, per le differenti tecniche che sono state utilizzate. L'animazione comunque è molto bella, anche perché fra i registi si annoverano nomi come Eric Goldberg. In generale il film all'inizio fu un grande flop. Forse uno dei più grandi flop del rinascimento Disney, anche a confronto con il film precedente che era Il Re Leone. Quindi diciamo che per la Disney fu un film molto molto controverso, anche se tutt'oggi è molto più apprezzato dai nostalgici o comunque dai bambini del periodo, ma anche un po' per quello che il film poteva insegnare, ovvero magari più concentrarsi sulle differenze fra le popolazioni invece che smussare, dato che comunque Pocahontas viene vista quasi come inglesizzata sin da subito e non tanto come una nativa americana che doveva essere. Quindi per questo fu molto controverso. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.